Buonasera e benvenuti sulle frequenze di Railroad Radio Station. Come al solito, puntuali ogni mercoledì dalle 22 in poi. Questa è Uptown Rockers e io sono Drago DJ. Siamo arrivati alla 15ª puntata. Il pezzo che avete appena ascoltato è del duo americano Man Parrish. Titolo della canzone Hip Hop Bebop Don't Stop, datata 1982 e uscita sulla Zeltor Music. Come vi sarete accorti, abbiamo iniziato la puntata dedicandola al suono elettronico dei primi anni 80, sulla scia di Africa Bambaataa e del suo mitico pezzo Planet Rock. Andiamo avanti con il nostro tap-in, come si dice in gergo della pallacanestro, un 1-2, quindi un'accoppiata di due song. Sto parlando di Hashim con Alna Fish The Soul e Shannon con Let The Music Play. A voi Hashim, Alna Fish The Soul. It's time. We'll be right back. Shannon, Let the Music Play, datata 1983, uscita sull'Emergency Records. Il pezzo invece antecedente era il mitico Hashim, un pezzo super elettro dal titolo Al Nafish, datato 1983 su Cutting Records, tanto per essere precisi e dare un aiuto ai nostri cari ascoltatori Diggers. Andiamo avanti con una accoppiata, altre due canzoni. Sto parlando di Yellow Magic Orchestra, i giapponesi capitanati da Sakamoto, con il mitico pezzo Computer Games sulla Horizon 1979, pezzo riportato in auge da Bambata nei primi anni 80. Subito dopo ritorniamo invece alla funky music che tanto amiamo con Herman Kelly, Dance to the Drummer Beat 1977, e questa è Yellow Magic Orchestra. Rockers e Fuori Piove, restate sintonizzati quindi se siete davanti al vostro PC per un'altra accoppiata di song veramente bomba. Sto parlando degli Art of Noise con il pezzo Beatbox del 1984 e di un'altra song sempre edita dalla casa discografica Island di Chris Blackwell. E questo è un gruppo prodotto da David Byrne, sono i B-52, il pezzo si intitola Mesopotamia, datato 1982. E per quanto riguarda gli Art of Noise, questa è veramente una hit degli anni 80, quando la tecnologia aveva preso il sopravvento con le nuove drum machine e i sequencer. Un pezzo stracampionato, tra l'altro. E questa è sempre Uptown Rockers, io sono Drago DJ, ecco a voi Art of Noise Beatbox. Oh, La scavallata dei B-52 con Mesopotamia, rilassiamoci un po' con Grace Jones, ritmi un po' più in levare, un po' più tranquilli, sempre primi anni 80, 1982, sempre in casa Island. Il titolo della canzone è My Jamaican Guy e questo è il penultimo pezzo, subito dopo una song invece riportata in auge dalla DFA che l'ha ristampata nel 2010, ma non vi voglio svelare ancora niente. Restate sintonizzati perché dopo la puntata ci sarà il mixtape. Thank you. Siamo arrivati in fondo al finale di questa 15ª puntata di Uptown Rockers, ogni mercoledì dalle 22 alle 24, in replica la domenica alle ore 21. Potete seguirci anche in differita tramite il podcast. Siamo arrivati in fondo, come vi dicevo, questa è una produzione di Arthur Russell riportata alla luce dalla DFA di Murphy. Questo è Peter Gordon e Love of Life Orchestra. Peter Gordon, un socio di produzione di Arthur Russell. Qui il violoncello di Russell la fa da padrone. Il titolo del pezzo è Don't Haunt Redux. A voi i miei cordiali saluti e ci sentiamo, la prossima puntata, subito dopo questa song, il mixtape della serata. Un ciao a tutti quanti, Peter Gordon, Love of Life Orchestra.